Vola. Avanti. Chi è? Gianni, buonasera, dalla stazione. Ciao Gia, buonasera, Claudio Sparviero. Sto provando un baracchino, come mi senti di radio? Bello, perfetto e pulito. Segnale è buono. Qua lo smitter è un po' sbiadito, un po' vecchio. Comunque stai arrivando a bomba. Bene. Questo è un Ranger 2950, RC2950, molto bello, tutto digitale. Bel display, bello tutto. No, stavo provando perché non l'avevo ancora, l'avevo messo in trascatto, ma mi sono dimenticato di provarlo per vedere se si andava. Capito? Però se tu mi dici che sta andando bene, no, non c'è problema. Qua il segnale è buono e la radio è perfetta. Ehi, vabbè, vediamo se entra qualcuno che c'ha uno smitter un po' più recente del tuo, e così proviamo la potenza bassa e la potenza alta. Ma ti si muove lo smitter, ti funziona a te? Sì, è che è un apparato vecchio e quindi, insomma, non è così leggibile, a dire la verità, dai. Ho capito, ma per vedere se si abbassa la potenza, guarda, questa è la potenza alta, 1, 2, 3, 4, e questa è la potenza bassa. Si è abbassato lo smitter? Ma guarda, è quasi impercettibile, anche a livello sonoro, proprio di modulazione, è praticamente impercettibile. Praticamente la modulazione non cambia, dai. No, ti ripeto, il mio strumento si è mosso proprio di un cappello, dai, proprio nuda. Ho capito, vabbè. Il bip c'è? Eia. Vabbè, quindi funziona tutto, dai. Molto bene. E tu la stai combinando? Bella giornata anche oggi, sembriamo già in primavera. Adesso però dice che cambierà sicuramente. Febbraio è un po' pazzo, dai, quindi un po' a svarioni come sempre, quindi non aspettiamoci ancora un tempo stabile, sicuramente cambierà sicuramente. E se cambia già siamo dentro casa, noi non ce ne fotte niente. Vediamo come cambia e quando cambia. La primavera intanto deve arrivare. Nel giardino io c'ho già tutto quello che serve per la primavera. Vediamo se quest'anno ci saranno i fiori, perché è il primo anno che c'ho il giardino, quindi vediamo un po'. Sicuramente sì. Come ti arrivo io da te? Bene, Santiago Nova, Radio 5. Bene Meda, ho messo l'antennino veicolare sul terrazzo, insomma, sta facendo il suo dovere, dai. Sì, ma ti ho sentito anche ieri con la radio HF, col 440, andavi magnificamente bene. Con questa sei Santiago 9, ma anche mi arrivi 9 anche sul analogico, perché questo è digitale, però arrivi bene, non problemi. Bene Meda, e tu che combini di bello, a parte il lavoro? No, io non lavoro più, io sono già in pensione, però stamattina ero 8 giorni in campagna, non sono rientrato neanche a pranzo, praticamente sono rientrato un'oretta fa, verso le 5, dai. Adesso sono i muratori, stanno ultimando dei lavori, stanno facendo delle cose, quindi è giusto che ci sia io ancora, capito? Però per il resto adesso fanno gli altri, io ho già dato. Bene, è giusto che sia così, dopo tanto sbattimento adesso bisogna assaporarne i frutti, come si dice. Già, 41 anni è qualcosa, me li sono fatti, adesso basta, adesso potevo farmene ancora un anno e mezzo buono, anche due, però non ne avevo più voglia, sono andato via un po' prima, perché non ne avevo più voglia di stare, andare e tornare, soprattutto a viaggiare, perché io non lavoravo a Sassari, quindi il periodo estivo, il viaggio per me era un tormento, 70 km andare, 70 a tornare, con quel caldo afoso che fa d'estate mi ero scocciato, e quindi ho fatto l'ultima estate l'anno scorso, dopodiché a ottobre ho già, fine settembre, primi di ottobre ho iniziato già a stufarmi, a novembre non ci sono più andato. Bene, hai fatto la cosa giusta. Cioè. dopo tanto sbattimento va bene così, quindi va bene, dai. Diciamo, va bene, ce la cambiano già, non ho fatto proprio un accidente. Va bene. OK. E che antenne hai messo? Cos'è? Una di quelle senza radiali? Sì, insomma, l'ho smontata da un vecchio camper, sarà alta 1,70, 1,75, vetroresina, l'ho fissato un palo su interrato, praticamente, ho visto che funziona, insomma, sembra che stia uscendo, insomma, abbastanza decentemente. No, ti ripeto, sta arrivando bene. No, non ci sono problemi. Santiago Nuovo, Radio 5, perfetta, senza problemi. Considerando che mi sente anche Giulio abbastanza bene, visto che Ripunti praticamente è nascosto da Monteoro, è dentro la fossa, insomma, già buono così. Vabbè, noi non siamo neanche molto vicini, io sono dall'altra parte della città praticamente. Quindi sono verso Serrasecca, però la zona è molto alta, perciò percepisco bene il tuo segnale, forse a vista ottica ti vedo anche, e perciò è per quello che arrivi bene. Santiago Nuovo, Radio 5 qua sul baracchino. Sì, sì, infatti io dal terrazzo praticamente vedo la parte alta dei Sassari, però se mi giro vedo bene Porto Torres, la Sinara, Duttugantu, però c'ho la montagna di Monteoro che copre la nulla e praticamente lì sotto c'è anche Ripunti. La montagna di Monteoro dà fastidio a molta gente, io sono proprio lì, ho lì la casa, è molto alto, vedo tutto Sassari, Sorso, Sennori, tutta la costa, sia da una parte che dall'altra, senza nessun ostacolo. Infatti quando faccio le prove in VHF e in UHF ricevo meglio da lì che da qua. Immagino. Poi vabbè, Monteoro sarà saturo di radiofrequenza lì con tutti i punti che ci sono, quindi. Aspetta un attimo, già un secondo solo, proprio che mi ha chiamato mia moglie, devo prenderle una cosa da sopra l'armadio, ci vuole la scala. No problem. Eccomi qua, già, scusa. Avanti. Ho detto eccomi qua, sono tornato. Gaffa. Stavo dicendo che Monteoro è abbastanza saturo di elettrosmog. No, dove sono io è tranquillissimo, ho già fatto le prove, non anche neanche rientri di RF, niente. Va alla grande, anche perché sono proprio a 50 metri dal traliccio, quello alto, cemento armato, quindi è molto, molto isolato, diciamo, dai. Perlomeno in V1, poi HF 27 ancora non l'ho provata, adesso vediamo. Quando ne ho voglia faremo anche quello, per il momento c'è solo le V e le U lì e basta. Quello lì è il ripetitore della RAI sopra quel serbatoio dell'acqua, è abbastanza alto. Ci sono stato vicino anni fa quando lavoravo ancora in televisione, quando avevamo piazzato il traliccio nostro, il piccolo, fa impressione vederlo da sotto. Allora se ci sei stato lì, 50 metri, quella casa rosa, un po' rialzata, praticamente sono un piano terra e un primo piano, lì ci sono io, capito? Ok, vai, sto parlando di un po' d'anni fa, quando stavo ancora in televisione, quindi mi ricordo che ho frequentato giusto quel posto quando stavamo tirando su il traliccio per la televisione, avevamo messo praticamente il pilastro, cioè l'elemento portante di una vecchia gru, tutto verniciato, poi è stato tutto attrezzato, scavi, insomma, una battaglia. Lo so, però è una bella zona, è una bella zona, niente da invidiare da qua, penso che sia anche più alta, non so, però è molto aperta, su quattro lati proprio, anche su Alghero c'è un bel transito, ma soprattutto verso il mare. Va bene, quindi. E che marca è quella antenna che hai messo? Senza radiale, cos'è, un Ringo? Guarda, ti ripeto, cioè anche l'apparato era praticamente piazzato dentro un vecchio camper, un vecchio Ducato, un'arca di un amico, praticamente l'ho portato via dal suo terreno, e niente, l'ho visto, una gigaba di tutto, e quindi antenna, apparato, tutto qua, e poi, ti ripeto, l'ho messo, l'ho conservato e l'altro giorno praticamente l'ho messo in funzione. Vabbè, ma anche se è un apparato vecchio, funziona bene, questo è un baracchino, non è giovane di età, è un RC20... 29,50 o 55, posso senza occhiali comunque. Quelli sono radio, questa digitale, tutta molto bella esteticamente e anche ben funzionante, c'ha 10 watt, bande laterali, tutto, molto bella. Però anche questa è anzianotta, quella sicuramente sarà più anziana di questa. Guarda, sicuramente dall'estetica, dalla fattura, visto che l'ho aperta giusto per controllare e dargli una spolverata, questa è sicuramente roba anni 70, fine anni 70, e quindi sai, quelle cose giapponesi con i componenti, alcuni componenti su bazzette e altri tutti i volanti, insomma, quelle cose proprio anni 70 classiche. Ho capito. No, questa è più recente, però sarà sicuramente anni 90, 2000, 90, non lo so quando è uscita sta radio, però è esteticamente fiammante e poi è molto bella perché c'è un bellissimo display, tutto arancione, tutto illuminata, c'ha tantissimi tasti perché è tutto a tasti, tranne i potenziometri, squelci, volume, RF gain, bande laterali, eccetera, eccetera. Cambio canale tutto in automatico, in down e up, anche il pomellone, eccetera. Una bella radio. Frequenzimetro è favoloso perché è molto grande, si vede veramente tanto. E il sistema di ricezione è digitale, però è abbastanza preciso. Vabbè, se mi stai dicendo che di quel periodo storico lì, quindi sarà una radio sicuramente all'altezza. Un po' di tempo fa al mercatino dell'usato a Predanieta, mentre stavo dando uno sguardo stavo cercando un vecchio televisore e ho beccato, mi sembra, un vecchio apparato della CTE, bello, bande laterali, insomma abbastanza completo, e ha una fesseria, è che non c'avevo i soldi per prenderlo, ragazzi. Registrato il break, vabbè, baracchini già ce ne sono tanti, si ricerchi, se ti servono baracchini ne ho una scatola, anche in ottimo stato, a due lire, io ne ho tantissimi, questo è uno dei tanti che lo sto praticamente non controllando, l'ho acceso per farlo andare, l'ho tutto pulito ed è fiammante, perché sicuramente me lo porterò in campagna, giusto per quando sono lì fare due chiacchiere, quando ne ho voglia, perché manco l'antenna c'è ancora. Avanti break, buonasera. Santiago 9, Radio 5, Antonello. Non lo so se Gianni ti ascolta alla stazione. Gianni, l'hai sentito, Antonello? Qua arriva, io lo copio proprio molto basso, è appena percettibile. Ma è che portate lei, Antonio? Con l'antenna di quelle alte in ferro, quelle lì? Gava. Va bene. Santiago 9, qua col baracchino. Mi ascolti bene a me le radio, sì? Sto provando, sto usando il Ranger, non provando. Sto usando il Ranger perché era uno di quelli che ho messo dentro la scatola senza provare. E allora, te ci lo proviamo prima che non funzioni e poi me lo porterò in campagna e lo metterò da qualche parte. Va bene, avanti Gianni. Sì, Antonello esce proprio appena appena dal rumore di fondo e proprio non riesco a insomma a sentirlo. Si sente un borbottio e quindi niente, insomma. Non so in che zona si trovi. Nella zona di Carbonazzi, dai, più o meno dove sono io, però sta usando un portatile con l'antenna telescopica dentro casa e non sta usando l'antenna esterna, capito Gianni? Allora ho capito, proprio sente un leggero brusio, non riesco neanche a capire cosa dice, quindi capisco, adesso mi rendo conto il perché, dai, avanti qua. Ho provato fare tu sul canale 20, Antonio, manco di splatterti certo con questo baracchino, è veramente favoloso, molto, molto performante, sì, questo è un baracchino che mi serve, mi interessa. KK. Io sto qua alle 10 e basta, non ho voglia di fare provette, l'ho già detto senza offesa per nessuno, per carità, ognuno è giusto, le radio si provino, ma io entro qua a fare due chiacchiere. Va bene, quindi già non la sai la marca di questa antenna che hai montato? No, guarda, non ho idea, cioè non sinceramente gli ho dato uno sguardo, visto che insomma gli ho dato una pulita, non ho idea sinceramente, comunque è una veicolare, una classica, ti ripeto la marca non ho idea, l'ho controllata, l'ho pulita, ho isolato bene i contatti e tutto il resto e l'ho piazzata e ciccia. Ah ecco, stavi gracchiando adesso, un po'. Forse perché ho avvicinato troppo il microfono alla bocca. Guarda così se è meglio, 1-2, 1-2. Sì, adesso va meglio. Va meglio, beh anch'io sto usando il microfono normale, il suo, però evidentemente c'è un bel Mickey Gain in questa radio. Sicuramente, perché l'ho provata in cuffie, c'è una bella modulazione, anche se è normale, però una bella modulazione. Digli Antonello con che portatile sta uscendo. Cos'è, un Mobicon? Ah, Mobicon 40S. Quello... magari simile a quello che usavi tu un tempo, mi Gianni, che c'ha l'antenna telescopica lunga. Boh, adesso... Sì, vabbè, mi è venuto in mente l'Innoite che avevo comprato da Cineradio un secolo fa, c'aveva un'antenna telescopica, era lunga, non so quanto era lunga, era lunghissima. Adesso mi è venuta in mente quella cosa lì. Vabbè, quei portatili lì sono tutti così, Quando scivola questa antenna era 1,75 m, mi pare, 1,50 m, lunghe, quindi non si potevano portare manco in giro perché era una cosa bruttissima da vedere, però in quegli anni quello avevamo e quello usavamo, adesso è tutto cambiato, sono le stesse antenne in gomma, piccole, che lavorano ugualmente come quelle. Allora l'hai trovato quello lì, Antonio, ma ce l'avevi tu? No, me l'ha regalato, cosa me l'ha regalato? Marco Condor, capito? Era senza antenna, io gli ho installato l'antennino, era perfetto. Ah, quando è venuto a prendersi la radio ti ha provato quello anche? E sono anche la FM500S, questo io l'ho modificato, ho messo il canale sotto. Esce bene, ho visto, è perfetto. Io ho messo l'antenna telescopica di un portatile che avevo io, di 40 canali, con l'attacco del microfono, un maio in pratica era. Quello l'avevo voluto di nuovo avere, vedi. Riesco a trovarlo su internet e me lo prendo. Di quei pesanti, il ferro era, con lo smitterino, 40 canali, normale 40 sotto, e l'attacco del microfono a 4 pollici aveva. Quello già era bello, con la telescopica lunga, visto che era bello davvero. No, è troppo. Come fai a uscire con un'antenna del genere? Ti viene per pazzo, ti prendo. Vabbè. Ma perché io mi ricordo, io ne avevo uno della Fayette, che praticamente sembrava una Fayette HB23 portatile, però, e c'aveva la manopolina rotonda ed era 12 canali. Però c'aveva anche l'attacco al tonnello dell'antenna esterna. Sì, sì, anche questo c'è l'attacco all'antenna esterna. Deve c'è APL in pratica. Capito? Ah, ecco, glielo puoi attaccare l'antenna esterna. Il microfono ce l'aveva quello a jack, tipo quella dei portatili, capito? E funzionava che era una meraviglia, aveva 2,5 watt, così, 2,5 watt, non arrivava a 3 watt, però funzionava molto molto bene. Sì, sì, funziona bene, voglia, è giusto. Riprendi Gianni intanto, vai. Mentre stavi modulando poco fa, ti stavi portando appresso delle scariche. Non so di che cosa si tratti. Ma io ho delle scariche? O Antonello era? No, adesso questo passaggio era pulito. Mentre stavi parlando della Fayette, praticamente ti stavi portando appresso delle scariche. Non so se era roba che dipendeva da te o che cosa. Comunque, era giusto per fartelo notare. Avevo il microfono un po' sganciato. Non era avvitato bene, forse come ho tirato, per quello che sentivi delle scariche. Anche adesso? No, adesso è pulito. Va bene, perfetto. Ok, hai fatto bene a dirmelo, infatti ho stretto la ghiera perché siccome l'avevo innestata senza sigla, forse come stavo tirando il microfono c'era questo disturbo. Va bene. Non avevi stretto bene la ghiera del mic, giusto? Sì, perché stavo poc'anzi stavo provando, poi stavo pulendo il microfono, tutta pulita. Ho dato quello spray lucido, veramente, non me la ricordavo così, così nuova questa radio. Vabbè, io la roba che tengo la tengo, la custodisco molto molto bene, quindi questa è perfetta. Avanti Antonello. Antonello cerca giù due la gadria. No, già siamo qua. Tanto c'è una larghezza di banda allucinante il tuo clacquero, Sì, sul 10, sull'11 e sul 12. Che baracchino c'hai? E questo non è mai stato toccato, ma questo è come mamma l'ha fatto. 5 watt, cioè 10 watt c'ha, dai, 8 modulati 10 watt, mai toccato, mai aperto, mai fatto niente a questa radio. Me sono accortato adesso, anzi me ne sono accorto con il capo che fa con l'Endicom, con lui, con come si chiama, con l'altro apparecchio, che mi è sembrato strano. Adesso ho attaccato questo e c'hai una ragazza di balla allucinante, fai sì, sul 10, sull'11 e sul 12, bello chiaro. Passi qua alla 9.30, lì sei 9.15, sul altro canale sei Santiago 9, quindi di una di due, vedo già, Romy. baracchini degli anni 90, 80, magari c'è un po' di spurie, manda, ma già siamo quanto, a tutti i dilli. Va bene. Avanti Gianni, riprendi. Anche a me mi entri sull'8 e sul 9, e anche sull'11 ti ho sentito adesso nell'ultimo passaggio, quindi ti stai allargando. Vabbè, allargando, vai. Magari sta pompando, cosa vuoi ti dica, non lo so. 10 watt. Avanti. Eccolo qua, ciao Claudio. Con chi sei, con Daniele? No, c'è Gianni dalla stazione, Antonello Alessio. Oh, un attimo. Ciao Claudio. Io devo mollare, dai, che mi è arrivata gente adesso, mi è arrivata. Ci sentiamo dopo, ci sentiamo se ci siete. Ciao Claudio. Ciao Fra, non ti avevo sentito, ma tu eri poco fa. No, ero sul 20, ero con Giulio e Walter. Ah, è vero che voi ci avete anche canale 20 adesso, quindi ogni tanto vi spostate. Va bene, io sono sempre qua. Ciao, a dopo Franco, avanti Giulio, dimmi come mi ascolti. Bene, bene, qua. Ciao, qua, a dopo, dai, ci sentiamo. Sì, ma eravamo sul 20 perché non c'era nessuno quando io ho acceso almeno un'ora fa, che forse anche un'ora e mezza, e dunque non c'era nessuno, lì mi sono sentito con Walter, per un attimo anche con Marco, ma Marco sta facendo dei lavori in antenna, per cui non ha potuto continuare. Franco mi ha detto, mi ha detto su 10 ci sono, allora passiamo subito io, e siamo arrivati qua, va bene? Va bene, ti ho detto, non c'è problema, io stavo chiacchierando con Gianni, poi è entrato Antonello che stava provando un portatile, io sto usando il Ranger RC29-55-50, col microfono normale, che anche questo non l'avevo pulito, adesso l'ho ripulito tutto e poi stasera lo metto dentro la scatola, nella sua busta, così porto anche questo via in campagna. No, la modulazione è molto buona, la ricezione è buona, il watt ci sono, come ti arrivo di potenza lì? Quanto è il segnale? Mi è sembrato 9+15, però non ho fatto in tempo a controllare con la massima certezza. Vediamo un po', riprova, rimetti la portante. Guarda un po', i picchi già sono positivi perché li vedo sul wattimetro. Qual è il segnale? Sì, 9+15, 9+15, i picchi positivi, sì, è vero. Aspetta che io un attimino, perché poc'anzi l'abbiamo anche in banda. Ecco. Ecco qua, mi metto così, scusa un attimo, ecco, mi metto così e non è il caso di mettere troppa potenza. Va benissimo con qua, sia del radio che di segnale. Ultimo. Ciao Gianni della stazione. Hai sentito? E niente, dai, qua si chiacchierava del più del meno. Ok, appunto. Allora, abbiamo saputo che qua c'era gente, allora siamo passati qua. Ciao Tomè, tu sei scappato un po' cazzo, sono anche chiamato. Mi potevi avvisare che qua si era aperta la il quattro? Stavo attaccato un portatile lunedì con 40S, lo stavo provando con Claudio. E poi mi sono accorto che cazzo, senta Claudio sul 10, sull'11, sul 12. Lo stesso canale cambia poco, da 9.30 c'è 9.20 e 9 e Santiago 9. C'è una larghezza di banda allucinante, sembra che sia una radio privata, pare che sia. Tre canali assieme sta facendo Claudio con quel baracchino. Non l'ho mai visto una cosa in vita mia, la verità. Lo credo, e poi voi, essendo vicini, tu lo senti per forza Claudio, ma io non lo potevo sentire, per cui qua, si è considerato che qua non c'era nessuno, allora cerchiamo campo atterraggio, e sono atterrato su canale 20. E poi c'era anche tu, no? già me l'hai sentito, già ti hai sentito poco. Poi stavo aspettando che entrasse per un attimo Marco, che stavo piazzando, suppongo, una nuova antenna, e però non andava bene e dunque aveva bisogno di controllare ulteriormente, per cui poi però non l'ho più sentito, non so se ha terminato o che. Va bene, riprendi qua. Ok, va bene, va bene. Quindi tutti il lavoro. Beh, Antonio, siamo vicini, anch'io poc'anzi sul 20 leggermente sentivo il fruscio, perché ero qua sul 10 con Gianni, ma proprio il fruscio leggero leggero. Se però mi avvicino che mi metto sul 23 è chiaro che mi splatteri, i baracchini sono così. Non è questione di cose. Questo è nuovo, a me Giulio ti ho mandato la foto, molto bello, c'è un display allucinante. Proprio per me che sono mezzo cieco, e tutti i tasti, è tutto illuminato, veramente molto bella come radio. Ne ho anche un'altra, però il Typhoon 2 è quello. non è a frequenzimetro, sì, cioè è a frequenzimetro anche quello, sì, è a frequenzimetro anche quello, che quello ci assomiglia molto al, al Typhoon 2, come il Galaxy 2 veicolare, dai, tipo quello che c'è il 2 Franco, questo è un po' diverso, vabbè, facciamo girare, avanti Gianni, riprendi. Ok, ti faccio notare che ogni tanto sto ricevendo qualche scarica, adesso nell'ultimo passaggio un paio di scariche, le ho sentite, non so gli altri se hanno sentito la stessa cosa, comunque ho sentito un paio di scariche, magari controllati bene lo spinotto. Io sento a te con le scariche, già da poc'anzi, però pensavo fosse la... il mio altoparlante, invece non è altoparlante mio. Tu senti scariche, Giulio, mentre io parlo? No, assolutamente sono abbastanza pulito qua. Sì, questo che mi ha mandato, questo video che mi ha mandato, lo conosco, è molto bello questo, anche il 5555, cioè 5555, CRT mi sembra che si chiama 5555, lo guardi lì, cioè, questo è un po' come il coso, come il presidente Lincoln, se non sbaglio, per quanto mi ricordo io, così, la frequenzimetro tutto, così manco, mi ricordo che così il presidente Lincoln. Sì, è quasi gemello del presidente Lincoln, quasi gemello. Sì, questo è il 2950, RC 2950, la versione da 10 watt, mi pare che ne abbia 15 o 20 in banda laterale, una cosa del genere. Sì, è molto molto bello. Oh Gianni, sei tu che c'hai scariche, evidentemente ti rifà sia in trasmissione che in ricezione, perché io sono in cuffie e non sento niente mentre parlo. Ecco. Monte le scariche. Sono a casa, sono in pullman, c'è la fermata del pullman di Alghero, quindi ogni tanto vanno e vengono queste scariche, non so da cosa possa dipendere, Greco? Avanti. Buonasera, salutoni circolari a tutti. Claro, comunque anch'io confermo, cioè delle scariche in trasmissione. Metti solo una portata in fissa, va bene qua, senza parlare. Io non sento niente, per me è pulita la modulazione, non c'è nemmeno il rumore in fondo, forse come muove il microfono, inserisci bene lo spinotto dal microfono, sia che sia quello, magari come ti muovi un po' il filo, ti sarà quello il difetto. Adesso lo controllo, a vedere, perché questa radio, ti avete conto ragazzi, che era anni e anni e anni dentro l'armadio, l'ho tirata fuori l'altro giorno per sistemarla, invece non ho fatto niente, ho rimessato la scatola del sugiro, l'ho pulita e la sto usando. Datemi 2 minuti che provo a controllare il microfono, sia che c'è qualche filo staccato, qualcosa che tocca e non tocca. Riprendi Antonè, ciao Daniele. Ma scusa un attimo Daniele, ciao Daniele intanto. Ma allora ti spiego, qua. Allora inizialmente, oltre la metà del passaggio, non si è sentito un minimo di rumore. Dopo hai cominciato qualche scarichetta, sì, è vero, sì. E non so, forse come muovi il filo, sarà il cavo che dal cavo ha qualche piccolo problema. Va bene, dai, controlla, e intanto io rilancio per Daniele. Ciao Daniele, avanti, scusa se ti ho preso il microfono, va. No, tranquillo Giulio, no problema. E allora, che si dice? E che si dice? Le solite chiacchierate che ci facciamo la sera, niente di più. Per cui non... Allora, cosa hai deciso per l'antenna? Non hai deciso niente? Ancora niente, giù, perché sto cercando una 5 ottave se riesco a trovarla, capito? Anche se quel progetto che mi hai detto lo voglio realizzare e provarla, magari funziona meglio, chi lo sa? Funziona la mia, funziona quella di Franco del Monte, funziona, anche il Franco se l'ha autocostruita, per cui al primo colpo è andata bene subito, non è che devi perdere tempo lì, basta rispettare le misure, Daniele, basta rispettare quelle misure e ti posso garantire che funziona. Io ce l'ho un anno e mezzo, tu senti niente, rumori, a parte l'avvento, no, l'avvento l'ha sentito. sentirà senz'altro, anche perché io ho un microfono molto sensibile. Però voglio dire, del resto non sente niente, non ci sono stazionari, non c'è niente. Va benissimo, Daniele, figurati, nonostante che è molto bassa, chiusa fra le mura del terrazzo addirittura, pensa un po'. Ehi, a cavalaba Giulio. Sì, quello niente da dire, che sia performante, niente da dire, però visto che c'ero volevo prendere qualcosa, cioè prendo una e basta e avanza, capito? Anche che Claudio sa, la sto facendo, me ne serve una più seria, diciamo. Ok, allora provati una mantova, provati, oppure che so io un assidio, ci sono delle buone antenne in giro, visto considerato che puoi metterla anche su adesso, perciò allora problemi di non ne ha di nessun genere. Va bene, facciamo girare per Giovanni, avanti Giovanni alla stazione. KK, ben sentito Daniele. Insomma, a me la modulazione come radio mi arrivi un po' basso rispetto a ieri, non so cosa hai toccato, si è modificato qualcosa. Comunque, ben sentito, era giusto per precisare questa cosa qua. Comunque, niente, dai, prova a fare un passaggio per vedere se è tutto come prima. Daniele? Sì, c'è un QSO locale qua in casa. Scusa, se mi sono assentato 2 secondi. Mi stavi dicendo? Che rispetto a ieri, praticamente la radio la trovo diversa, non so se hai fatto delle modifiche. No, negativo, è tutto secco e pesto da ieri, tutto invariato. Non ho toccato nulla, meglio così, questa cosa deve essere lunatica. Bene Meda, bene Meda. Ok, dai, facciamo girare, avanti Antonello se ci sei. Io già siamo qua, non c'è problema. Allora Daniele, per accendere l'antenna esterna come si deve, vedrai come esci forte, fai schiattare a tutti. Pompo, lo spero, come si dice, sto venendo un po', stasera mi sono passato da Grassi, da Ore, però non gli è rimasto più nulla neanche a lui, c'era una Grand Plane. Poi da quella zona, Daniele, quando metterai l'antenna quella performante da quella zona, già lo credo, mi ricordo, intanto né più né meno sì, all'incirca come Antonello pure, più o meno, non è poi precisamente, però come attitudine diciamo, per cui già da lì spari alla grande, mettendo l'antenna performante veramente, ma comunque io sinceramente ti sento bene, per cui no, problemi non ne ho, anche se sei con quest'antennino adesso. E così sento bene anche a Gianni dalla stazione. Gianni, sul treno mi sentono a me, sopra il treno, quello diretto per Cagliari, mi sentono? Sono rientrato, Ok, d'accordo, e allora te lo lancio subito dopo la risposta di Gianni. Vai Gianni, mi sentono sul treno a me. Qua Giulio, mi arrivi, sembra che hai il mic gain a manetta, l'audio praticamente è saturo, sento l'audio saturo, non so cosa stia succedendo, comunque ho questa sensazione, mi viene difficile capirti in questo momento. Ma a me è saturo o Giulio? No, è Giulio, sembra che abbia il gain del microfono molto alto e quindi praticamente gli va in saturazione l'audio, questo è quello che riesco a percepire io adesso. Non lo so, qua è perfetto Giulio. Allora io sto modulando, vediamo un po', sì c'era la ghiera praticamente femmina del baracchino che era completamente mollata, quindi adesso l'ho stretta, vediamo un po' se era quello, se non è, se lo fa di nuovo vuol dire vuole controllato, o il microfono o la radio, non lo so, lo sta facendo? Adesso è a posto. Breche, avanti Breche, buonasera. Cappa, buonasera a tutta la ruota, non so chi c'è perché sono entrato così in scivolata là. Ciao Massimiliano, sono io Giulio, Gianni dalla stazione, Daniele e Antonello Motopompa, cambio. Positivo, dai, positivo. ok, allora rilasciamo a Giulio, dai, che ce l'abbiamo vicino di casa. Avanti Giulio. Ok, ciao, Massimo Giulio, ben entrato. Sì, appunto, dammi tu un responso riguardo alla radio, perché già nella stazione mi sta dicendo che io arrivo un pochino all'ostacolo. Eppure c'era uno il microfono, cioè il Mighty Game. Tu come mi senti che siamo vicini? Ma per me non devi toccare niente, magari ti devi appena appena allontanare dal microfono, però per me non devi toccare niente. No, saturo, non sei saturo. Ok, allora mi sono allontanato un attimino, così vediamo un po' se così piace di più la modulazione. Perché a uno, non è, è proprio a uno centrato, non... Sì, c'è il processore, questo d'accordo. Poi lo sto utilizzando con 50 ohm, il microfono anche che con 500, per cui, però, mi sta dicendo che arriva bene, dirà lui. Va bene, va, riprendi il Massimiliano e fai girare, vai, da Renko te l'abbiamo fatto, di chi c'è in ruota e vai per chi vuoi. Positivo, là, rilancio Giovanni, che non so chi è questo Giovanni, oh. Avanti Giovanni. Buonasera Massimiliano, adesso l'ultimo passaggio che ha fatto Giulio andava meglio, forse stava molto vicino al microfono e il suo tono di voce è molto alto, quindi praticamente mi arrivava a saturo, capito? Quindi era tutto qua. Adesso l'ultimo passaggio che ha fatto praticamente l'ho sentito molto meglio. E niente, tutto qua. L'hai sentito Massi? Anche tu dagli punti? Sì, zone limitrofe qua, là. Anche io qua in zona. Bene, Meda, ok, dai. Avanti Claudio, adesso praticamente scariche non se ne sentono più, quindi il problema è risolto. Sì, K, no, c'è la laghiera del microfono, cioè del baracchino mollata, quindi non me ne ero accorto. Adesso l'ho stretta e ho pulito anche i contatti, adesso va bene. Con il vostro permesso, Massimiliano, come ti arrivo lì, va bene? Questo è il Ranger 2950. Perfetta, sembrava un K. K già. Microfono normale, microfono da palmo, tutto bello pulito e ordinato. Esatto, sono una decina, 10-12 modulati, dai, tutto qua. Va bene. Avanti Daniele, riprendi tu, anche da te sto andando bene. Ditemi se c'è qualche anomalia, ditemela, perché chiaramente sto modulando con un vecchio baracchino. Avanti Daniele. Tutto K qua, Cla, va bene, sparite le scariche, è ritornato tutto alla normalità. Va bene, tu il mio numero di telefono non ce l'hai più, Cla? No, non ce l'ho più. E certo ce l'ho, se ci siamo anche sentiti. Perché io non ce l'ho più, fammi uno squillo che così ti mando la foto di dove vorrei piazzare l'antenna. Ma secondo me tu ti stai rincoglionendo, se ci siamo sentiti il numero ce l'hai, no? Allucinante Giga, poi tu mette cose Giga, quando riceve i numeri poi li cancella, vabbè, te lo rimando Daniele, non c'è problema, ma è quello che ti ho chiamato, quindi no, dovresti averlo, forse non te l'hai memorizzato, vabbè, allora te lo mando e te lo memorizzi, va bene, avanti Giulio, riprendi. Scusate, capo, dai, mi assento un secondo, arrivo subito. D'accordo, Daniele, d'accordo, a dopo allora, dai, va benissimo. Sì, qua, tu dici, ha ragione Massimiliano quando dice serve a capo. Per forza, perché tu bisogna il microfono progettato, dai, con quella voce lì. Se sei sempre a guardare, non lo so, voglio. Vabbè, ma la natura è stata molto, ma molto benevola con te, riguardo della voce, per cui... E infatti, ho detto, un capo sta usando, perché ogni radio che prende su tutti i bristigi, che radio, baracchini o capo, No, ma ce n'è, già lo senti, il bip, il capo non ne ha bip, questo è... Poi il Ranger, lo sai, c'è il microfono normale, quello con down e up dal microfono. Volevo però farti notare una cosa, metti l'occhio sullo Smith, guarda, perché questa è la potenza alta, potenza alta, e questa è la potenza bassa. Si è abbassato? Sì, qua a casa fai dal 9.10 al 9.20. Allora già va bene. Anche da te Giulio col K la stessa cosa? Mi hai dato 9.15, adesso è 9. Adesso è 9.5. Perfetto. Ok, va bene. Avanti Gianni, riprendi? Ok, Adesso era la precisazione che ho fatto poco fa a Giulio era solamente la verità, cioè ho visto che sicuramente magari era molto vicino al microfono e io avevo difficoltà a capire quello che diceva, capito? Non era giusto un'osservazione esatta di quello che stava succedendo, non volevo dire chissà che cosa, capito? Quindi giù, non ti preoccupare, adesso riesco a capirti meglio, quindi era giusto una curiosità per vedere se avevi il gain del microfono, insomma, ad un certo livello, tutto qua. Poi per il resto va bene così, adesso riesco a capirti molto meglio di prima. Ok Gianni, non c'è problema, figurati. Allora, questo è un microfono che costa quanto un baracchino, ecco qua il discorso. È un microfono professionale, capisci? E quando magari sono più vicino, anche come il mio nuovo, magari posso andare anche un po' in saturazione, nonostante che è a 1, come il volume è a 1 solamente, lo tengo sempre a 1, perché se no lo so che se aumento un pochino poi incomincio a strappare. Pertanto lo faccio sempre così. Poi, Claudio mi ha detto diverse volte, li lascio sempre a 1, così faccio e nessuno si lamenta. Evidentemente ero troppo vicino e per te si ballava il baracchino sul tavolino. Tutto lì. È bello, ma tu vedi. Sì, no, vabbè, ma io già ti ho sentito già tante volte, quindi problemi non ce ne sono. Magari a volte tendi a un po' avvicinarti e quindi sembra che sia un po' spinta, là. Non è il saturo, è un po' più spinta la modulazione. Ma a me mi piacciono le radio forti comunque, no, problemi non ce ne sono. Va bene, chi c'era anche Pompolio mi sembra che parcheggio, avanti Antonè. Ehi, a me Massimiliano, non faccio più inteso qua. Cosa l'Italia, siamo un giorno non ci sentiamo. Comunque ben ascoltato. Andrà bene vera. Sono contento. Ehi Antonè, poco tempo ho da stare alle radio, capito? Tra lavoro fuori, lavoro a casa e un macello. Infatti mi sto facendo una chiacchierata perché adesso lo devo proprio togliere tutto là, capito? Appoggerò qualcosa sulla sedia, ma giusto per non tenerle spente, basta. Va bene che va bene, tutto a posto. Sì, claro, ho visto la foto, bella quella radio, che mi sembra me la compro. E vendita Massimiliano. E vendita, vieni e te la prendi, poi con te non ci sono problemi, mi dai quando prendi la pensione. Adesso. Conviene che fai un foglio a me, Claudio, capito? Fai un foglio già e lascialo a Anna, che devo venire a portarmi via un po' di radio da lì, già lo sai. Già pronto, te l'ho promesso, già pronto, il testamento è già tutto fatto, non ti preoccupare. Visione. No, bella anche accesa, una bella radio. Accesa Massimiliano è favolosa, al buio è favolosa anche perché c'ha tutti i tasti, ne ha 2, 4, 6... 7 e sotto sono 14, tutti i tasti del funzionamento praticamente sono tutti illuminati in arancione, il display è tutto arancione, fa cieghi, già hai visto la digitura del frequenzimetro quanto è grande, è veramente molto molto molto bella, veramente molto bella, infatti ho scelto questa da mettere qua per farla girare perché è quella che mi piace più di tutti, veramente molto bella. E peccato che non ho un adattatore a 5, perché questo, il connettore è a 5, altrimenti le avrei messo il Tanner più 3 e ti dico che forse si mette in tasca il K, perché c'ha un ottimo trasmettitore. Avanti Daniele, ma sei tu Daniele che mi hai mandato il numero? Guarda che io il tuo numero ce l'ho, Certo Daniele ci sta rincoglionendo, ma rincoglionendo forte. Ci siamo sentiti, evidentemente non ci abbiamo dato il numero, ma mi ha mandato un numero, non so chi è che mi abbia mandato un numero su WhatsApp, chi è? Ehi, lo voglia, meno male che ce l'avevi già quel numero, buonasera a tutti. Ah, tu sì, ma non ce l'ho in memoria, ce l'ho come, poi non c'è manco foto, metti un segnale, metti qualcosa. Va bene, ciao Marco, buonasera, ben ascoltato, riprendi e fai girare, c'è Antonello, Gianni dalla stazione, Daniele che è in quel X, Giulio e Massimiliano, vai. Ehi, buonasera a tutti, dai, però sto mangiando, non posso riprendere. No, ti ho mandato un messaggio, Claudio, che sei l'unico di tutto il canale che arriva sull'8, sul 9, sul 10, sull'11 e sul 12. Cioè la tua emissione si sente pari pari sui canali adiacenti, uguale uguale. L'unico. Quando parlano gli altri mi spostano in un canale e spariscono completamente. Oh, chiedi conferma. Dai, vi devo lasciare, ciao. Sono rientrato. Ehi, Marco, sì, me l'hanno detto anche gli altri, non lo so, vabbè, è un baracchino abbastanza anzianotto, quindi può darsi pure che ci abbia un po' la media frequenza spostata, però sta pompando, sta andando, perciò solo la potenza massima, magari se abbasso la potenza non succede niente. Ok, Daniele, è quello che praticamente il numero finisce con 129, mi ti ricordi che ti ho chiamato, Claro, nel frattempo ho cambiato anche il telefono e ho perso tutti i numeri, la maggior parte sono spariti, ogni tanto mi trovo qualche numero, non so di chi sia. Ah, se non è che hai combinato un casino, vabbè, dai, te lo rimando allora, così te lo memorizzi, va bene, faccio girare, Giulio riprendi. Ok, sì, Daniele, allora non ho più il tuo numero, se andai via e persi, ma il numero ti è rimasto sempre lo solito a te, con questo nuovo telefonino, se no anch'io sarei in una benissima condizione, senza il tuo numero. Ehi, Giulio, c'è anche il tuo numero, quello di Jairo Pio Room, insomma, di quasi tutti, e li ho persi. Sì, ma ho chiesto, se tu hai sempre lo stesso numero, io te lo posso mandare su WhatsApp, probabilmente non ce ne sono. Se tu hai sempre lo stesso numero, te lo mando io, e poi te lo registro il mio. Li ho cambiati due o tre nell'arco degli anni, capito? Ma a darvelo non ne ho problemi, anche qua, tanto. Ok, adesso guardo il tuo numero e ti dico il numero finale per vedere se sono quelli. Se è quello, vuol dire che ce l'hai sempre. Diversamente, o meglio, ce l'ho sempre io. Diversamente vuol dire che non ce l'ho più. Va bene, nel frattempo facciamo girare. Avanti, Massimiliano. Sì, sì, positivo. Là. Ascolta, io mi fermo qua in questo canale, però inizio già a svuotare un po', a mettere un po' di alimentatori dentro le scatole, tutte cose. No, vi ascolto volentieri, ma già sono qua, ogni tanto già riprendo, ok? Ok, Massimiliano, d'accordo, dai, quando credi, quando finisci, quando sei disponibile, siamo qua, ci fa piacere se rientri anche. A dopo eventualmente. D'accordo, ciao Massimiliano, a dopo, ti mando gli amici per salutare. Avanti Gianni. Kappa. Va bene Massi, ciao Marcolì, adesso sei andato a pappare, vabbè, se sei in ascolto, quando rientri mi dici come ti arriva adesso, visto che ho piazzato l'antenna su, perché ci siamo sentiti quando l'antenna non era ancora nella posizione definitiva. Va bene, buona cena, e niente, adesso Claudio esce pulito, quindi le scariche che sentivano avevano un motivo. Bene Meda, vabbè, ripeto che anche da me praticamente arriva dall'8, 9, 10, 11, proprio sparpaglia il segnale su diversi canali, avanti qua. 9 più 20, ciao. Ciao Marco. Vabbè dai, insomma non mi fate modulare mai con i baracchini a me. Va bene. Adesso ho commutato con l'altro baracchino. Bene, mi ascolti adesso Gianni. Era meglio prima, dai, come radio, come pulizia era meglio prima, perlomeno adesso, in questo ultimo passaggio. Comunque il segnale è abbastanza forte, niente da dire. Qua è tutto a posto. Sicuramente ti rimbomba, perché questo è il gemello di quello che c'ha Giulio. Va bene. E poi io mi tuffo subito con i microfoni da palmo, mi fa male il dito a forza di pigiare, questo è come l'amico di Giulio, batto le mani e parla da solo, vero Giulio? Quello lì è convinto di aver inventato chissà che, lui con l'applicazione Cibitalk, ha detto che lui è l'unico al mondo, dice che ce l'ha quel sistema lì, bravo, meglio vedo. Allora, 21, aspetta, scusa un attimino, gli ultimi 4 numeri. numeri, gli ultimi quattro numeri sono 2162, confermami se è quello. 2162, sì Giulio, inizia con 346. Esatto, esatto, sì. Allora ce l'ho sempre, dai, io ce l'ho sempre, Daniele. E il tuo numero è quello, ce l'ho allora. E allora fammi uno squillo Giulio, così me lo riscrivo. Va bene, adesso ti chiamo, va bene, a distanza riprendi il numero e poi te lo registri, va bene, lo faccio subito. Riprendi, Marco, ci sei, dai, dopo mangi. Lascialo mangiare con calma, cazzo, lo fa affogare, boh. Sta pranzando Marco, lasciatelo pranzare. Va bene, va bene. Avanti allora, oh Gianni, quindi ti rimbomba troppo forte questa, ma io non tocco niente, questa è la mia modulazione originale del K, io non muovo mai niente. K, sì, è proprio questione di microfono, adesso sembra molto più aperto il suono, infatti si sente anche il reverbero della stanza, cosa che non si sentiva prima, quindi comunque ben venga, va bene così, già ti sento bene lo stesso. Ok, avanti. Perché è vuota adesso la stanza, ho svuotato tutto, c'è solo un paio di radio, poi stavo trovando quel baracchino, adesso poi lo tolgo e lo rimetto a posto. Anzi, adesso lo lascio lì così lo faccio andare ogni tanto. Va bene, avanti Antonello, riprendi. Sì, lascio l'accesa perché senz'altro c'era qualche cosa strana, perché sentiti i quattro canali, c'è il canale da una parte, per l'altro non è mai successo. Quindi senz'altro è perché non lo usavi, c'è qualche falso contatto magari. Non penso che sia roba di media frequenza, perché mi sembra strano, c'è una ragazza di banda che di tre canali a destra, tre a sinistra, sembra un tipo trasmettito all'FM che si prende un tipo un po' di banda per poter trasmettere. Sì, vabbè, prendilo com'è, l'importante è che esca bene, poi dai un baracchino che è appunto uso poco, non fa niente, torniamo come i vecchi tempi a spatterarci, a sentirci da una parte all'altra, va bene, beh. No, mi interessava che usciva bene, beh. Veramente un ottimo, mi sento benissimo, un ottimo ricevitore, trasmettitore alla grande, funziona bene, adesso è acceso, l'ho messo in un canale alto, infatti vedo che non sto manco rientrando. Non c'è manco rientro, vabbè, col commutatore Kenwood non è che la stacca bene l'antenna. Ok, allora Daniele, prendi tu e fai girare per Giulia, vai. Ehi Acla, anche tu c'hai l'162 finale del mio numero? 162 finale? No, io c'ho l'altro, quello che t'ho chiamato. No, allora quello non ce l'ho più. Fatelo mandare da Giulio. Sciu, cazzo, ne fai poco casino, anche se numeri. Vabbè, Giulio, mandamelo su WhatsApp, quello nuovo di Daniele. In una ghetta ha fatto un casino niente, anche se numeri, che riprendi. Si è giocato al lotto, si è tutti giocati al lotto. Va bene, adesso te lo mando, dai. Aspetta un attimino, te lo mando. Avanti Gianni. Avanti giù. Forse abbiamo parlato in due. No, ho risposto a Claudio, che già glielo mando adesso. Appunto, l'avevo rilanciato per Gianni, io Daniele. Glielo mando io adesso il tuo numero, Daniele, a Claudio, non ci sono problemi. Ok? Ehi, ma Claudio, sei sicuro che hai parlato con me? Perché questo c'ho già un po' di tempo, Ce l'ho già, se c'era Giulio ce l'ho da un paio di anni. Sì, ma io c'ho l'altro, e con chi ho parlato, con Babbo Natale? Con chi ho parlato, con Gesino Appiuri, io c'ho l'altro numero che ci avevo praticamente sempre memorizzato, ok? Sì, e allora è un bel tempo che mi hai chiamato. Cazzo, ma ricoglionendo ti stai o a loggia? Abbiamo parlato del DAC, da quando è che ti ho chiamato? Sì, là, ti sei ricordato più, cavolo, mi sto ricordando veramente io, Allora siamo in due. Lasciamo perdere, dai. Lasciamo perdere, Daniele, minchia. Vabbè, comunque adesso mi dà l'altro numero e così mi memorizzo anche quello. E l'altro lo tolgo allora, visto che non ce l'hai più. Va bene. Finito di mangiare, Marco. Ma dura poco la pacchia, perché deve arrivare il maresciallo qui, e quindi presto vi lascerò. E fa ancora in mezzo di piedi, il maresciallo, ma è andato in pensione? Proprio adesso che è in pensione, che c'ha più tempo libero, eccetera. Guarda, io poco fa ho acceso, no, era sul 10, ho acceso, ho sentito te, ho girato a fare carrellata. Sul 9 ti sentivo quasi identico, calava appena il segnale, sull'8 calava ancora di più il segnale, ma era identico, non eri di splatter. Poi sull'11, ovviamente sull'11 alfa, anche se qua non ce l'ho, e sul 12 un pochino ma arrivavi. Come se fosse partito qualche filtro passante nella trasmissione del tuo. Anzi, la prima cosa che ho pensato è, ho detto, ma il baracchino è partito, qualche stadio di ricezione mio è partito, invece gli altri li sentivo solo qua. Ok. Sì, non è niente, ok, Giulio me l'ha mandato, adesso me lo segno, va bene, grazie Giulio, non è niente, l'importante è che funziona la radio, poi se mi senti in tre canali, fai finta che ti sto crepando, che ti sto, ok, avanti Antonè. Adesso fai meglio, fai prima cosa, a attaccarti un DVD, lo uscita dal DVD, invece metti un bel CD e almeno c'hai tre canali per trasmettere musica 24 su 24. Ma cosa vuoi dire, diceva Racchini, già troppo che funzionano così bene, è nuovo, evidentemente come era fermo, anni, buttato dentro l'armadio. L'ho fatto nuovo praticamente, c'era anche il microfono tutto di porro, tutto pulito, lavato, ordinato, adesso è perfetto. Adesso lasciamo stare acceso, vediamo, forse ci sia qualcosa in perdita. Va bene, avanti Giulio, riprendi. Ok, vabbè, il numero te l'ho mandato verbalmente, così a Marco, e te l'ho ripetuto anche due volte, così spero non ci saranno problemi. Magari avrà sentito anche il baracchino sotto alla mia modulazione. Va bene, qua, dai, avanti con Boretto, Burdù. Lascia di criticare il tuo baracchino, che non è vero, che andava bene così, a voglia. Cosa te ne frega se ti ascoltano altri due o tre canali sotto o due o tre canali sopra? Quella è la potenza, non se ne parla più. Avanti Gianni. Eia. Marco fa e viene. C'è il maresciallo che lo bracca. Adesso io tra una decina di minuti stacco, quindi era giusto per dirvelo. Massimiliano sta sistemando. Daniele già fa rendere quello telefono. Bene Meda. Dai, faccio girare. Avanti Daniele. Cara, va bene, la storia del mio numero l'abbiamo risolta, meglio così. E adesso ho ritrovato un po' altri due numeri, va bene. Spero fare altri casini, cambiare telefoni, numeri, schede e via dicendo. Così lo stesso io mi ho fatto un pasticcio con i numeri, con le schede, con i cellulari. Ma tu me l'hai mandato il numero, sei salvato questa volta, non Marco? Se non l'ho dato mi potevi mandare come il primo numero, no? Ma Daniele, guarda che ti ho fatto uno squillo e non prende la linea, Cioè quello c'è il numero, un altro me ne terranno di nuovo. Una scena, sì, se è quello giusto, 346 inizia qua. 346 finisce con 162, allora guarda che ci avrei una chiamata persa e sono io, finisce con 129 finisce. ascolta, mandami un messaggio su WhatsApp che così mi arriva, perché qua hanno fatto un casino anche con la linea telefonica, con il cellulare, hanno fatto questa struttura di fronte a casa, non, il telefono da me è diventato una porcheria, è diventato un'impresa. Vabbè, adesso cancello l'altro allora, va bene, ok, dai, riprendi Antonio e fai girare. Scusa un attimo, prova adesso qua che è tornata la linea. Guarda, fai prima, guarda, appena il telefono di quelli Contras, che abbiamo visto tutti i casi, di quei telefoni che vendevano una volta, che costano 10 euro, mi sa, da Portobello, quelli della Telecom, che ti fanno la videochiamata, della team. Memorizzi tutti i numeri del telefono, uno per uno, così ce l'hai. Tanto tu ce l'hai in casa, non fai altro che andare nella rubrica e cercare i numeri. Marco, finita di andare. Aspetta Giulio, poco fa mi hai fatto una domanda, però sei troppo amplificato e non ho capito cosa mi hai chiesto a proposito di un numero. Ho detto che tu mi hai mandato il numero senza il gatto, dunque me ne hai mandato un pezzo e meno di numero. No, il numero c'è tutto, ma ci manca il gatto, se sei giù. Il gatto, il pipistrello, Rattapignara voleva dire pipistrello, che non è un gatto, mi. Come il gatto prima, è andato come cosa, come foto, avevi il tuo gatto a testa in giù, dai, oh Marco, lì che sono sempre lì. No, è un pipistrello, quello nero, è un pipistrello. Aspetta che te lo rimando dall'altro, aspetta. Rimandamelo. Pipistrello, boh. Vabbè, mettiamo un gatto, pipistrello, ok? Se il pipistrello con la testa di un gatto, non lo so io. Ma c'è la differenza tra pipistrello e gatto, Cla? Penso proprio di sì. Vabbè, dai, siamo bene lo stesso. Daniele, avanti, ti prendi. Cava, aspetta, sto mandando un messaggio, aspetta. Manda. Avanti, Gianni. Eia, insomma, un aburotto. Tra pipistrelli e il numero di telefono, la sera è un casino. Tra microfoni si sgancia, non scarica, insomma, non si ricomprende nulla. Va bene, avanti Claudio. Vabbè, ma pipistrello gliel'ho messo io, perché lui di notte sta in giro, capito? E di giorno dorme. In algherese si dice Rattapignara e lui si chiama Rattapignara, capito? Kappa, avanti Marco. Sì, scusate che sto dando i numeri, nel vero senso della parola, ho contattato Giulio là. Claudio, ho capito la storia, Giulio era convinto che quello in foto a testa in giù fosse un gatto, invece è il pipistrello, perciò il nome era Rattapignara, no? Esatto, ma infatti, perché il pipistrello sta a testa in giù, quindi Giulio, quello è un pipistrello, non è un gatto, capito? Sì, se mi dicevano così, perché parlano così? Sembra un gatto, sembra, e io cosa ne sapevo, che era un pipistrello, Marco? Sì, me l'hai mandato uguale, è quello di prima, e dunque adesso ce l'ho due volte, se sono un po'. Sì, Marco, se mi stai confermando che è quello, che è il pipistrello, va bene, ma a me mi sembrava un gatto, perché la fotografia è talmente piccola che puoi vedere questa testolina così, a testa in giù, sembra un gatto. Sì, perché c'ha il muso da volpe quel pipistrello, no? Non è come quelli sardi che hanno la faccia proprio da vampiro. Non so se si chiami proprio pipistrello volpe quello, proprio al pelo come può essere un qualsiasi mammifero. Ok, e poi è tutto nero come calimero. va bene, dai. Adesso ne so qualcosa di più. Adesso ne ho due numeri, ho quello che finisce con 40 e quello che mi ha mandato adesso con 98 finisce. Guarda con la potenza bassa a vedere se mi senti, che poi la cicchera la potenza alta, guarda a vedere così se mi senti lo stesso degli altri canali, prova. Sì, ti sento, se vuoi ti faccio il video, ti faccio vedere che il segnale, ma lo sai che stavo pensando che uno stesse traslando addirittura? Addirittura? No, Vabbè, allora è il baracchino che ha un po' di, come si dice, di spurie. Però esce magnificamente bene. Infatti ho ricomontato l'antenna perché mi piace anche modularci, Veramente è molto bella sta radio. Ah, ora me ne affutti se spratterò tre canali, ma non mi interessa niente. Quella non è la potenza, è la prepotenza. Non sono Splatter Crack, proprio ti senti chiaro, perfetto, come se fossi quel canale. Faccio l'unica cosa che bisogna fare, la prova, è se tu senti a noi. Sono sicuro che se Marco passa sul canale 11 ti chiama, tu lo rispondi. Ma è buono. Allora, vi sento anche a voi, a te ti sento nell'11, nel 12 e nel 13 e poi sparisci. A Marco al contrario, nel 10, nel 9 e nell'8 e poi sparisce. Ma di splatter o come se fossi proprio lì? Come se sei qua, con segnale più basso, però ti sento. Deve essere partito qualche filtro passante sicuramente, non so di che tipo, boh, ma è strano che lo faccia anche in ricezione da te, perché sai, ricezione e trasmissione sono due cose diverse, ma... Ehi, già non è grave, ma cosa, per la gente che c'è, non è che se siamo sul 10, tu rimani sul 10, cosa te ne affrutti? Tanto non è che ci spostiamo uno a fianco all'altro. Quando sei su, ve ne andate sul 20, già non mi sentite se io sono sul 10. A futtidini. L'importante è che la radio funzioni bene. Non me la futtinuta. Vai Giulio, riprendi. Ok. Marco, è bene che lui è come quando parla il Presidente della Repubblica alla rete unificata. Lui è a canale unificato. Dunque, sì, claro, anch'io ti ho sentito. Un canale sotto e un canale sopra. In uguale maniera, senza nessuna differenza. Sì, è vero, è vero. Hai tre canali a uno. Va bene così. A canale unificato, sì, dai, dai. Va bene. Giù Presidente, allora, giù Presidente, K. Io sono rimasto contento che se n'è andato fuori dalle scatole Sanna come sindaco, ma poi chissà cosa ci capita però. Non ti preoccupare, già quello che arriva già è meglio di lui sicuramente. Cosa pensava? Che saliva la regione? C'è Sassari che fa schifo, si deve solo vergognare di protestare, si deve solo vergognare, capito? Vabbè, lasciamo perdere la politica che poco ce ne frega, intanto sono tutti uguali. Avanti Gianni, riprendi. Eia, sarà, comunque apro una parentesi, sarà sempre gusto personale, ma a orecchio, a livello di suono, di modulazione, è proprio forse per questione anche di microfono, sicuramente mi piace più questo segnale rispetto a quello di prima, parlo sempre di Claudio, preferisco questo tipo di radio qua. Mamma mia, come sto, che cosa mai detto, Giulio, hai sentito Gianni? Perché? Allora ce li buttiamo via questi K, dai. Perché rimbomba meno Claudio? Per lui, ma voi siete abituati a sentirmi col K, vabbè che io non ho bisogno di microfoni preamplificati, io ho le corde vocali preamplificate, quindi questo è un microfono originale della RCI, quindi è originale il suo, con down e up e da microfono, nuovo, era dentro la busta, perciò, però ti ripeto, c'ha una trasmissione micidiale sta radio, E poi anche la ricezione, non ho messo neanche l'NB, c'è l'NB, ANL, c'è un sacco di filtri che però chiudono troppo, quindi li lascio aperti, ma è veramente eccezionale, a prescindere che mi sentite a reti unificate, che non è un problema. Avanti Daniele, riprendi, cambio. Ehi Acra, ora ti ho mandato un messaggio. Ah, il tuo era, pensavo che era Massimiliano, mi stava avvisando che è un attimino in stand by, che sta facendo cosa, ma ci sta ascoltando. Adesso lo guardo, riprendi Antonello. Antonello non riprende. Giulio, tu hai tre numeri, dovresti avere tre numeri. Uno è il numero storico, 347, inizia col 347, gli altri sono per telefonia mobile, per gli smartphone, in poche parole. Sì, io ne ho tre di numeri, compreso quello di casa però, tre numeri con quello mi sembra di avere, sì è vero, ne ho tre, però sono tutti e tre, due dello smartphone, l'altro è di casa, o Marco. ma tu ce l'avevi il vecchio, guarda, inizia con 347 e finisce con 1-8. Inizia 347 e finisce con 1-8. Vediamo, forse se lo trovo e te lo dico subito. Fammi guardare la rubrica qui e vediamo un po' se te lo trovo. Ok. Io purtroppo con questi casini dei cellulari, uno è impazzito il vecchio, uno dei due vecchi, uno è impazzito, purtroppo li avevo salvati sul telefono, quindi non c'ho, su WhatsApp non ho nemmeno tutti i contatti, capito? Ho solo quelli del 10, i miei fedelissimi, gli altri canali non ne ho contatti. Antonello, sei entrato? No, è andato a bere. Ho detto, ma il bip bello è, si sente? Sembra un ultrasuono, lo senti, è talmente acuto che non lo senti quasi. Lo senti e non lo senti, mi. Tipo ultrasuono, sarà andato a 22.000 Hz minimo. Ha tutto particolare la radio. Vabbè, no, io lo sento, però la cosa che mi interessava era quel gracchiare, c'era la ghiera, no, quella del baracchino proprio, Marco, che era completamente mollata, con il cacciavitino l'ho stretta dall'esterno, no, la ghiera che mantiene praticamente, entra dall'interno, poi da fuori c'è quella ghiera che stringe, quella era mollata, per quello faceva dei rumori poco fa, adesso non li fa più. Beh, va bene. Quindi, caro Gianni, ti piace questo RC2950, dai, della Ranger? È un baracchinetto col microfono normale, è chiaro che quando sei in città non ne vale la pena usare radio con amplificazione molto alta, anche perché io ho una bella spinta di petto sulla modulazione, quindi non serve assolutamente a niente. Va bene, allora il cambio ancora per te Gianni e poi fai girare a te. Ehi, no, ti ripeto, è assolutamente una mia considerazione personale, cioè proprio una questione proprio di gusto, capito, di suono, di modulazione, è giusto quello, poi ognuno fa zighi su i piatti, giustamente, e niente, era giusto una considerazione personale. Quindi nient'altro, non è che ci sono altre cose dietro, è una constatazione così e basta. Mi piace quel tipo di modulazione, quel tipo di radio, poi per carità, egregi tutti i segnali e tutte le apparecchiature, ben vengano. Niente, va bene così per adesso. Avanti Giulio. Ok già. Sì, allora Marco, sì, è vero, hai ragione, io ne ho tre più quello di casa di numeri. Uno che finisce con 989, uno con 040 e uno con 898. Io ho questi tre numeri finali, Marco, ripeto, 989, 040, 898. Tre numeri, sì, più quello di casa. Ha voglia, in questo periodo ho più cellulari che denti. Oh Marco, guarda se la modulazione rimane com'era, il segnale da te salito, che ho sollevato la potenza. No, qua più di tanto non va, sei sul più del più 30 del 3009, appena sopra il più, ma non sale di più comunque, anche se vieni sotto casa. Vabbè, ma da così, questa è la potenza alta e questa è la potenza bassa, non scende lo smitter. Guarda, se vogliamo potrebbe essere meno di mezzo millimetro di distanza, meno di mezzo millimetro, renditi conto, è una cosa, siamo troppo vicini, non fa testo. Vabbè, dai, lasciamo a potenza alta allora, dai, intanto pensavo fosse questione di potenza, ma evidentemente non lo è, e allora la lascio con la potenza alta, così vediamo se si riprende. Va bene, intanto la modulazione non cambia, così è Giulio, è rimasta invariata, no? Sì, va bene, è sempre quella la modulazione, già va bene, nessun problema. Sai cos'è, quando tu usi il K, siccome Gianni ha il baracchino, è troppo leggero, è chiaro, come il mio, no? La facciamo ballare sul tavolino, è quello, il problema di Gianni è quello. Gianni, mettici un po' a cenere sopra qualcosa. cosa, sulla bottiglia piena di vino per appesantirlo il baracchino, così non ti vibra. Sta scherzando Gianni, riprendi. Eia, eia. No, vabbè, è che, insomma, sono sempre stato un appassionato di audio, di fonica, ho lavorato anche nel campo, quindi ho delle predilezioni per il suono, insomma, ho fatto diverse cose, quindi un certo tipo di suono mi garba e un certo tipo di suono no, quindi ecco, è solo la mia considerazione personale, poi ti ripeto giù, ognuno fa quello che meglio crede, io preferisco un certo tipo di suono, ecco perché ho precisato questa cosa con Claudio e anche e soprattutto con te, forse per via del tipo di microfono che sicuramente è un microfono professionale, per carità, non sono qua a giudicare nessuno, però a livello proprio di gusto, di orecchio, preferisco un certo tipo di radio, capito? Tutto qua, poi per il resto va bene così. Sì, sì, sì, certo, ci mancherebbe, quello è ovvio, ognuno ha le sue preferenze per tutte le cose, pertanto a te ti va bene così e va bene anche a lui, però a me va bene ugualmente. Sì, ma è così, vabbè. Vediamo un po', Daniele, ci sei sempre, sì, o ti sei addormentato? Ci sono. Sono qua in ascolto, devo cercare una cosa urgente da inviare. Ok, però mi sembra che ti stai un po' intorpidendo a quest'ora, dì la verità. Aiuto, dai, fatti un saltino, una barata, fai qualcosa. No, che devo mandare un documento, non me lo trovo più. Vabbè, dai. Niente stasera di gustoso, dai, mettiamolo sul piano culinare. Culinaria. Poi mi sono mangiato trippa e patate, e boh, buona, buonissima, poi si sceglieva in bocca, però per il resto mi sono alzato tardissimo, ma sono abbastanza giù oggi, giusto il baracchino un po' mi distrae, però poi, tanto adesso piomba mia zia, già lo sapete, sì, ci aiuta, quello che vuoi, però non vuole sentire nemmeno baracchino, dice che non lo sopporta nemmeno sentirlo il baracchino, dice che è una perdita di tempo, perché lei passa la vita lavorando, no? Tutto all'opposto mio. Secondo lì baracchino proprio dice è una perdita di tempo. Però lì c'è altro dietro, diciamo, è una nevrosi da lavoro la sua. Come ho detto prima, all'opposto mio. Vabbè, cosa ci vuoi fare? D'altronde, se a lei non piace, la pensa così a quel modo, invece noi abbiamo altre idee, per cui ognuno si tenga le sue idee. A noi ci piace, te lo teniamo e discorriamo anche. Dillo che la nostra narrativa è originale, tu già dovevi dire, guarda che non ce ne sono trucchi di sorta, è una narrativa naturale, originalissima di chiunque senti parlando. Guardate che rifletta un attimino. E poi lei critica un po' troppo gli hobby degli altri, cioè un hobby non deve essere una perdita di tempo, un hobby lo fai perché ti piace, poi che sia una cosa sedentaria, oppure un hobby, lei c'ha l'hobby del bricolage, sta sempre sempre facendo, capito, in campagna, in veranda, però alla fine diventa un lavoro l'hobby, non è più un hobby. Io per hobby potrei volermi guardare le stelle, bello sdraiato su un prato di notte, che quello è un hobby, e purtroppo lei ha una visione un po' limitata del, cioè tutto quello che non fa lei è, non serve a niente, capito? Solo quello che fa lei è buono e giusto, e vabbè, purtroppo non le cambi le mentalità, a una certa età non le cambi. Vediamo se è rientrato Antonello Pomponio, se no per Gianni. Pomponio, ci sei? Gianni, ci sei? Ehi, Marcolì. Sì, sì, ci sono. Poco fa mi hai confermato che sia il segnale e radio sono buoni, quindi niente, ti ringrazio. Anche tu arrivi pulito, ma abbastanza forte. E quindi vedo che il barattolino qua funziona egregiamente insieme al resto, insomma, con l'antenna compresa. Bene Meda, ragazzi, io ne approfitto, mi congedo a voi, faccio QRT, vi saluto tutti, grazie per la conversazione, ci sentiamo prossimamente. Un saluto a Claudio, Daniele, Massimiliano, Giulio, anche a te, buona serata a tutti, ok? Bye bye. Ehi, ciao Gianni, buona serata, ci sentiamo alle prossime. Dai. Volevo fare una domanda a Giulio. Giulio, era più entrato Antonello Di Ossi, da quella volta che mi aveva detto che lui il frequenzimetro non lo vedeva sul display, con quell'apparecchio che ti avevo mandato tramite WhatsApp, no, il suo. E lì mi è parso strano, perché lì c'è l'impostazione, puoi far sparire o tutto lo schermo, tutto lo schermo, compreso Smitter, scrittine varie, oppure non lo so perché non lo vedesse, volevo sapere se aveva risolto. No, non l'ho più sentito, intanto saluto a Gianni, ciao Gianni, e grazie a te per la chiacchierata, dai, ci sentiamo prossimamente, magari domani sera se coincide, ok, e sicuramente noi ci saremo, per cui se hai il tempo e la voglia fate sentire, così continueremo con il QSO di oggi. Sì Marco, penso che abbia avuto lui qualche difficoltà proprio quello che hai detto tu, comunque non lo so, non l'ho più sentito. Avanti qua. Sì, K, no, io l'ho sentito quando forse il giorno d'entrato stava provando il nuovo baracchino, boh, non lo so, l'ho sentito quel giorno lì, però non sono entrato a salutare. Poi non l'ho ascoltato più. Ok, va bene, avanti io, ciao Gianni, scusa, buona serata, buon tutto, grazie delle due chiacchiere. Ok, il cambio per Daniele, avanti Daniele. Ciao Gianni, ci ascoltiamo alle prossime, dai, quando coincide. Vabbè, io qua mi sto fanno questo documento e non riesco a inviarlo. Che adesso, 8 meno 39 minuti, sì. Ancora presto, le 8 meno 39 minuti, ancora presto. Sì, già, ripeto Marco, da quel giorno appunto che abbiamo parlato insieme, non l'ho più sentito, non so se è a lavoro, non lo so. Sì, diciamo che tempo fa lui mi aveva detto che generalmente la sera aveva sempre tempo libero, e non lo so, per quale motivo magari sono accende, boh. Casomai domani al limite le faccio uno squillo e vediamo un po' se ha tempo, se può entrare. Facciamo così, dai. Così cerchiamo di ripopolare la frequenza. E sembra che stia incominciando a risolversi, a differenza di qualche altro, vabbè, di qualche altra frequenza, non dico canale, dai, sotto il testo. Vabbù, riprendi qua. KQSL, vabbè, perché io sono un po' assente, però adesso già metto qualcosa anche dall'altra parte e quindi ci sentiamo, perché sto finendo dei lavori e quindi non posso adesso mettermi a fare altro, per capirci. Però diciamo in linea di massima qua ci siamo sempre, perlomeno il 10, se ci sono io stai pur certo che già c'è gente, non c'è problema. Va bene. Cosa volevo dire? Non mi ricordo, volevo dire una cosa, Marco non me la metto, vabbè. Ma Marco, ma è definitivo quel numero oppure continuo a tenerlo così in sospeso? Mettici una foto, mettici qualcosa di riferimento, perché non avendolo memorizzato, mi appare solo il numero e non so chi è, capito, a volte. No, però tu dalla rubrica devi inserire il numero sulla rubrica col nome. Cioè, ti ricopi il numero, lo metti nei contatti dal telefono e scrivi Marco. Marco 1, Marco 2, Marco 3, Marco Condor, Macu, mi puoi mettere anche Macu, quello che vuoi. Poi una foto, sì, potrei aggiungere una foto, è che non so cosa mettere. Una cosa di fantasia, cosa ne so. Vediamo cosa buscare. No, vabbè, dai, già, già mi arrangio io, perché nell'altro c'ho Marco Condor dove c'è la foto del pipistrello, lì ci metto Ratta Pignara e ti memorizzo così, visto che è un numero provvisorio, poi quando magari non lo usi più lo cancello, capito? Già mi arrangio io, vai. Sì, sì, sì. No, questi per adesso vi spiego, io il numero storico, quello che inizia con 347, quello Vodafone, ce l'ho su un telefonino a tasti, un piccolo telefonino Nokia, proprio un cellulare, solo per chiamare e per ricevere più che altro. Poi ho uno smartphone dove c'è o mobile o mobile, che sarebbe l'operatore virtuale di Vodafone, e sull'altro smartphone c'è Iliad, che è un operatore francese che ancora deve mettere le antenne, ancora si deve allargare. L'unico punto dove non prende questo Iliad è a casa, qui in camera mia non prende, non c'è modo di farlo prendere, però quando vai fuori casa ha voglia, ogni segnali, cioè la velocità c'è, funziona bene, è che c'ho proprio la zona d'ombra in camera mia, caso strano, proprio zona letto. Vabbè, Antonello c'era entrato, niente, vai Daniele, vai tu Daniele. Ci sono. Va bene, dai. Dai, riprendetemi, assento un secondo, mi sto incasinando qua, mandare questo documento. E non ci riesco. Ma com'è? Email? No, in pratica c'ho un modulo da compilare, però mi devo inviare la mia email, che devo allegare i documenti, e c'è sulla pagina di Facebook. Adesso l'ho aperta in PDF, ma l'apro in PDF tramite Facebook di Google col telefono, poi devo mandare la mia indirizzo email, se non riesco a compilarlo. Infatti se da Facebook io non lo tratto e non so come sia quello. Sì, però se si può scaricare in qualche formato, insomma, compilarlo, puoi spedirlo tramite email, il formato elettronico. E anch'io ho lasciato andare queste cose del computer, diventi matto, certe volte non vai a fare una cosa anche con gli smartphone e non la fa perché ci sono motivi, tipo gli smartphone Huawei con Android Auto non vanno d'accordo, non riesce a farli comunicare, eppure è Bluetooth l'uno, Bluetooth l'altro, eppure non quaglia, continue disconnessioni, l'abbiamo provato in macchina di un amico, di una Citroen, non c'è modo di farlo andare, eppure sempre Bluetooth, non capisco quale sia l'indippo, vabbè. Misteri, no vabbè, dai, domani me lo apro dal PC e vediamo se riesco, perché c'è scritto è compatibile senza necessità di essere stampato. Va bene, riprendi Cla. Aspetta un secondo che sono al telefono. Oh Giulio. Sì, ma tu mi hai detto 347, hai un telefono 347, ma io non ce l'ho con lo 347, oh Marco. Ho sei numeri, cioè quattro addirittura con quello di casa, ma quando 347 non ce n'è nemmeno uno che inizia così. Oh, può darsi pure Giulio. Magari tu mi chiamavi a casa, io ti chiamavo dal numero di casa per risparmiare, no? Perché lì le telefonate le pagavo a caro prezzo. Invece con questi smartphone puoi fare chiamate limitate, puoi stare 24 ore telefonando per dire. Paghi un 6 euro al mese, navighi, c'hai tutto, giga di internet, telefonate, sms limitate, che poi sms chi ne usa più? Sì, e beh, anch'io sono così, infatti nell'altro telefonino, questo qui è questo che ho lo smartphone o portamobile, io, mentre invece l'altro Vodafone, però l'altro non lo uso mai, non lo uso, se no perché hanno tante persone hanno quel numero, mi trovano lì, e a differenza di quello dello smartphone, che non sono tutti che ce l'hanno, per cui è per quello che ne tengo due, se no l'avrei anche eliminato. Che poi tra l'altro potrei anche mettere nello smartphone, ho la possibilità di mettere la doppia scheda, magari avendo la scheda piccolina però del Vodafone, siccome di quel telefonino che ormai è un po' so, di qualche anno, la scheda è grande e non si può stare, dove andare, farla cambiare e farla andare con le piccoline per inserirla direttamente nello smartphone. Ma a volte mi serve il doppio telefonino perché magari esco con mia moglie per un portatile suo, glielo il mio e così via, e ci arrangiamo in quella maniera. Che tutto sommato è anche utile, anche perché uno squillo adesso da che sembrano le campane di Santa Maria quando suona, è poco forte di quello che è telefonino lì, a differenza dello smartphone che è un po' più basso come suoneria. Dunque se siamo nel piano di sopra, ad esempio, lo smartphone non lo sento, mentre invece quello lo sento anche se sono in strada. È vero, è vero. Guarda, anche il mio, che è un Nokia moderno, no, di telefonino a tasti, ha una suoneria così forte che quando sono fuori, no, che c'è gente intorno, si spaventano pure. Dico, anima! E gli smartphone, chi più che meno, hanno il volume un po' più basso, è vero, è vero. Quando vuoi essere assillato, mi porti solo quella a tasti, chi vuol telefonare chiama lì, finisce la storia. Ti voglio dire che c'è gente, c'è un ragazzo su YouTube, no? Aspetta che ha bussato mia zia. Oh, non fate battute, mio. Oh. Giulio. Sì, Claudio, va. No, sono Massimiliano, giù. Puoi guardare se è tutto a posto? Ottimo, ottimo, vediamo il segnale. La radio è splendente. Splendido, splendente. Vediamo il segnale. Vediamo. Sì, va bene, era giusto per, dai, adesso ho buttato giù il mobile, ce l'ho sullo sgabello, là, giusto alimentatore radio, antenna diretta. Aspetto sempre il solito, 9:20 io ho Massimiliano, a posto, tutto come prima. Perfetto Massimiliano, perfetto. Sono rientrato. Andiamo bene allora, dai. Dai, qualche punto in più avete adesso, che prima ce l'avevo collegato tramite un piccolo linearetto e rosmetro, dai, dai, va. Adesso è proprio antenna diretta col baracchino, ci avete qualche, un punticino in più avete tutti, su Giulio, anche Daniele, ho visto che è appena entrato, Claudio. Io praticamente non mi ero accorto che ci avevo i watt tutti a zero. Com'è adesso la modulazione, va bene? Adesso la potenza è al massimo? Sì, per me va bene, quasi 9:25 addirittura. Te l'ho detto, prima era 9:10, 9:20, facevo, adesso sei 25. Allora non c'è bisogno, Clami, puoi sganciare. Se lo metti con 3-4 watt con la radio, c'è anche dei bei picchi di modulazione. Infatti ho sganciato adesso, ho sganciato. Siamo a 10 watt pieni con la potenza minima, dai. Oh, scusate signori, devo chiudere urgentemente. Ciao Massimiliano, ciao a tutti, ci sentiamo domani quando capita, ok? Ciao ciao. Ciao Marco, buona serata, dai, avanti giù. Ok, ciao Marco, grazie per la chiacchierata, dai, alle prossime, vai Claudio. Ciao Marco, alle prossime, dai. Ok, adesso sono sganciato con la potenza al massimo, Massimiliano, va bene lo stesso? Sì, da parte mia sì, però se la metti leggermente più bassa non c'è bisogno di portarla con la potenza al massimo, capito? Bastano 3-4 watt, perché mi sa che la radio c'ha dei picchi di modulazione belli, capito? E guarda, così col wattmetro della Kenwood sono a 10 watt modulati 15, quindi sta parlando, mentre invece così, ecco qua, così sono 5 watt modulati 8. Non lo so, va bene anche così, però già dovrebbe segnare qualcosina in più, con 4 watt dovrebbe salire intorno ai 18-20 con la radio. Più o meno siamo lì, dai, in scala a 20 siamo lì. Se modulo Massimiliano, c'è fischio Massimiliano lo fa, perché non avendo il microfono da tavolo non spinge molto, capito? Il microfono è normale. Però già va bene, dai, lo lasciamo così, to, 10 watt, 8 watt, to. 8 watt va bene, ok. Un altro passaggio, poi io chiudo perché è già tardi, così mi sistemo il cagnone, e iniziamo a preparare anche qualcosa per mettere sotto i denti. Allora, avanti a chi tocca. Massimiliano, tu sei a posto, stesso segnale di prima, ottimo, no, non c'è nessun problema. Avanti Daniele, riprendi? Ehi, dai, riprendo io, approfitto che qua è già pronto e ci sentiamo domani se coincide. Cappa, d'accordo, allora, ciao Daniele, alle prossime, ci sentiamo, stammi bene, cordialità e saluta a casa, babà e mamma, e la mogliettina e triche ballacche, già mai capito. Ok, Giulio, a te. Ok, ciao Daniele, salutoni, grazie per la chiacchierata, a domani. Claudio, saluto anche a te, visto che stai chiudendo, che devi portare il cane, e dunque ti saluto, ci sentiamo domani. Va benissimo, sì, ma ce ne li ha, alla grande, non, va benissimo, non, nessun problema, guarda, come prima. Sì, sì, no, perché ho buttato giù, avevo fatto, Giulio, mi avevo fatto un mobile e muratura, no? L'avevo fatto lungo quanto è tutta la cucina, poi il piano l'avevo fatto con quei mattoni che sembrano marmo, quelli 50x50, e poi vabbè tutte le pareti, avevo fatto il gasbetto, tutto fatto bello a filo, poi tutti gli sportellini, le cernierine, ho fatto carino, là, tutto rivestito in legno. Però siccome adesso qua io non vivo più in questa cucina qua, diciamo, questa deve diventare la cameretta per mia figlia, quindi ho dovuto buttare giù tutto e stavo aspettando che mia moglie portasse un po' di scatole per metterci tutta la roba, me l'ha portato due belle grandi, ho detto 10 minuti, butto tutto giù, infatti il materiale adesso lo lascio qua. E niente, domani mattina porto giù. Sì, sì, va benissimo. Tieni presente soprattutto che io ho sempre un'antenna autocostruita o massimilià con del polo ed è bassissima. Se la dovessi mettere più in alto, chiaramente mi arriverebbe ancora più forte, è ovvio. Suppongo, a meno che non sia così importante il fatto che noi siamo un po' vicino l'uno con l'altro, ecco. Perché alle volte quando sei vicino si può arrivare, vuoi mettere anche l'antenna un pochino meno performante e il segnale può essere sempre quello, però poi lontananza si sa, è chiaro che può cambiare. Mi sono spiegato Massimiliano? Sì, ti sei spiegato. Sì, no, scusa, ciao Cla, non so se ti avevo salutato, non mi ricordo. Va bene, allora, vediamo un po' se c'è ancora Claudio che vuole riprendere. Mi avete rilanciato? Dai, io vi saluto allora, cordialità a tutti, anche quelli che sono in ascolto, passo il QRT che vado a portare il cane. Ciao a tutti, a domani, grazie delle due chiacchiere. Ciao, Claudio, ci sentiamo anche a Daniele, lo so, non me la metto più se l'ho salutato. Va bene, avanti, riprendi giù. Ok, ciao Claudio, a domani, sì, sono quasi le 8, per cui meno 5, si chiama bene. Sì, Massimo, appunto, stavo dicendo che essendo il mio un dipolo, non era quanto fattuolo, già da un anno e mezzo, forse anche di più, l'avevo tirata giù per questioni di vento che fischiava e una volta mi dava fastidio. Per cui allora ho preso pochi metri di cavo coassiale e un pezzo di filo elettrico e ho fatto questa. È andata bene al primo momento e sto ancora continuando con questa, visto e considerato che mi sento anche in preparazione, quando c'è preparazione posso fare anche di ecchi, io ho già fatto. Per cui, però, non è il suo posto originale, l'antenna non è il suo posto originale, per cui mettendola più in alto, significa 5-6 metri più in alto, allora potrebbe anche cambiare, esserci della differenza. Oh giù, ragazzi, non va, se va, ma lascia tutto così, per fare due chiacchiere qua in città, va alla grande. Adesso se voglio di ancora arrampicarti da qualche parte, ma secondo me avrei lasciato tutto così finché va bene. Stai arrivando una canovata qui, sei qua di 9.30, quindi a voglia. Ok, appunto, Massimiliano. E infatti è per quello che mi sono trascurato di spostarla, e anche perché lì, sai, nel terrazzo è a portata di mano e non ci sono problemi, per qualsiasi evenienza. Pensa che c'è un foro alto sia no di 1,20 m, non di più, dal pavimento del terrazzo, se puoi immaginare. Non ho sfruttato nemmeno quella possibilità di metterci un palo lungo, è uno spezzone praticamente. E va bene, dai, continuo così, poi si verrà col tempo, e chi lo sa, boh. Ma va la grande, oh Giovi. visto che per la città va bene, ad Alghero ti sento, quindi ti sento un po' da tutte le parti, secondo me non, finché va bene come lasciarla così, poi un domani se decidi che vuoi fare una cosa più performante magari metti un palo e la sollevi. No, io avevo preso, avevo fatto, c'ho un palo da 1,5 metri, da 2 pollici, come piantone, dai. Poi avevo preso di quelle, sai, quelle staffe, cioè staffe, le staffe me le ho fatte io, perché ho preso un tubo innocenti, l'ho aperto a tipo ancora, e gli ho saldato quei morsetti, sai, quelli da ponteggio, no? Con chiave 26, e lì gli ho proprio messo il piantone. Dentro questo piantone gli ho messo un tubo di quelli, diciamo, segnaletici, da quelli della strada, quelli dello stop, per farti capire, che è alto 4 metri, e dentro lì avevo messo un tubo d'acqua per sollevare sulla mantova. Ecco, quindi io ho 1,5 metri, più 4, più altri 3 furi, a voglia, ho messo 4 tiranti, ne può fare il vento, ma no, so che si rompe l'antenna, ma comunque l'altro giorno ho visto che ha tenuto bene, dai. Sì, beh, anche questa con quel vento oscilla come la vacca della pesca, dunque si può immaginare come oscilla, però non succede niente, non l'ha spezzata assolutamente. Sì, diciamo che anche la parte diciamo originale dove avevo appunto la mantova è un facsimile di quello che hai detto tu stesso, così, con un tubo master che poi infilato dentro c'è l'altro, a elementi, a cano chiave, o per dire, quello poi si allungava su, certo, andava, va benissimo anche quello, tanto è vero, mi potevo portare l'antenna all'altezza della faccia, per dire, ci potevo lavorare tranquillamente, nonostante che la mantova tubo presa intorno ai 4,5 kg, più il tubo, ma ce la facevo a farla salire e a farla scendere da solo tranquillamente, tramite i bulloni che li avevo sostituiti, cioè del tubo, ci avevo saldato dei bulloni in acciaio inossidabile, in modo che non si rompessero e che non mi dessero fastidio eventualmente nel smontarlo, in modo per poter abbassare il tubo a cannocchiale. E così è sempre funzionato bene, sono sempre lucidi quei bulloni, sono in acciaio inossidabile, figurati se si arrigidiscono per niente o massimo via. Sì, anche io ho fatto la stessa cosa, Giulio. Io però, allora, il primo di sotto, quello l'ho fatto passante, in modo che il palo dove proprio c'è l'antenna, quello appoggia proprio sul bullone, capito? Per non avere il peso proprio, il peso diciamo lo tiene quello. In più ho preso il trapano e ogni 50 cm gli ho fatto un foro, gli ho saldato il dado in questo foro, e poi gli ho avvitato il bullone, in modo che quando inserisci il tubo stringi il bullone, capito? Ma io nel mio, così, io salgo anche da solo, mi appoggio la scala nel tubo e salgo da solo, mi capito? Senza bisogno di aiuto di nessuno, cioè, per farti capire quanto tiene, ecco. Sì, perché sono, tu pensa che io in tutti questi anni di militanza nella frequenza non ho mai messo tiranti, io non mi è mai successo niente, l'unica cosa che mi era successa è quando avevo la stella che aveva 16 radiali, ma uno a uno me ne sono caduti perché ormai c'erano gli anni, ce l'avevo avuta quasi 30 anni, è chiaro che ci sono battiti i radiali, a uno a uno poi sono caduti, e quando ne ero rimasti solo 5 o 6, una cosa del genere, allora l'avevo sostituita con la turbo, niente di più. Però a riguardo di quello, no, forse avevo fatto un altro particolare io, siccome io salgo l'alternato stesso, sul pezzo, quando devo salire, ci avevo messo sui muri perimetrali una passerella, avevo preso delle tabelle di quelle da 1 metro, no? E avevo fatto tutta la passerella sui muri perimetrali, in quanto la casa, o meglio le case adiacenti, le case confinanti sono allo stesso livello, per cui non c'è nemmeno un pericolo, niente, posso passare tranquillamente come passare per terra nel terrazzo, capisci? Ah sì, uniscono, cioè tetto con delle tabelle, sì, ho capito. Ma guarda Giulio, io non lo so, a me la mantova turbo la verità. verità, non l'ho mai avuta, però ho sentito che, anche da te l'ho sentito che non è andata mai alla grande, invece ce l'ha Gigi tanti anni e quella è uscita bene. Adesso non so se sono i materiali o le cose, magari tu l'hai presa quella più recente, magari il materiale è un po' diverso. A me, guarda, l'altro giorno mi è sfuggita, perché ero lì, stavo frugando un po' su quel rendo compro e scambio, e c'era questo ragazzo che aveva un Avanto V1 ancora in scatolata, un Avanto di magazzino, voleva 70 euro più la spedizione, e quando sono andato a contattarlo l'aveva appena venduta. Io ho l'Avanto V1 e io non la cambierei. Sì, me l'avevo pensato io, ma ce l'ho via. Mi ha dato problemi di natura elettrica, mi ha dato a riguardo, cioè diciamo che funzionava bene ugualmente, però siccome nasce cortocircuitata l'antenna, no? A un certo momento quello si interrompeva il contatto del fatto di essere cortocircuitata, però come struttura meccanica non ho niente da dire, la verità, i radiali sono da 10 mm, sono tubi da 10 mm e il tubo orsino centrale parte addirittura con un 45 mm di diametro, insomma sono dei tubi abbastanza resistenti. Il problema era questo particolare che a me mi dava fastidio, perché non era più controcircuitata, se l'hanno fatta così deve rimanere, invece no, si interrompeva quel particolare lì, e allora basta, a parte quello, pure ripeto, la notte quando soffiava il vento era micidiale, si sentiva fischiare, radiare, non so da che cosa dipendesse, forse perché era installata nello stesso muro dove appunto corrispondente alla linea del letto, che ne so, insomma so solo che la sentivo fischiare abbastanza, un po' fastidiosa la notte, quando c'era molto vento naturalmente. Ma a me non me l'ha mai fatto, anche l'altro giorno, hai visto che c'erano quelle raffiche di vento così, eppure mai l'ho sentita fischiare, mai. Poi magari c'era la posizione, che ne so io. Io poi, qua ne prende il vento, qua ne prende parecchio. Però diciamo che fischiare non l'ho mai sentita, ecco. Ok, appunto, facciamo un fruscio la notte, sai, quando tutto è silenzio, si sentiva. Adesso non so da che cosa dipendesse, probabilmente perché era praticamente, tu immaginati il muro dove era installata l'antenna, io scendendo giù al piano sotto, praticamente la camera dove c'è il letto, eccetera. Forse risuonava per quel motivo, non te lo so dire, so solo che si sente parecchio quando soffia forte il vento. Quando è di debole intensità non si sente niente, ma quando è forte come quei giorni passati, sa voglia, sembra un'orchestra che continua. Vabbè, ma comunque adesso ti lascerai questa, già va bene, a voglia. Giulia, a me mi hanno chiamato, dai, devo scendere giù a cenare. Grazie per le due chiacchiere, vabbè, adesso magari si sta un po' ripopolando, su questo sono un po' contento, sono entrato già ieri, oggi ho visto che c'era una bella ruota. Ok, Giulio, buona serata, buona cena e buon tutto. Ci sentiamo domani se coincide, ok? Ok, Massimo, grazie a te per la chiacchierata, è sempre un piacere, figurati, ci mancherebbe. A domani se coincide, ciao Massimo, buona cena, ciao.